Io non vi chiedo una fiducia cieca, a tutti chiediamo una fiducia non cieca, una fiducia vigilante, ma pensiamo che se noi faremo un buon lavoro, nel darci o ritirarci la fiducia, forse voi dovrete anche tenere conto di quali sono le conseguenze per quanto riguarda la fiducia dei cittadini in voi. Sono lieto infine di annunciare a coloro che suggeriscono, e condivido interamente questo suggerimento, di far valere di più il pensiero e le ragioni e la forza dell'Italia nelle sedi europee. Sono lieto di annunciare che la settimana prossima avrò due visite, una a Bruxelles alle istituzioni comunitarie e una che ho concordato ieri su loro proposta telefonicamente con il Presidente Sarkozy e il Cancelliere Merkel, di un incontro a tre per avere d'ora in poi permanentemente il contributo dell'Italia nella soluzione dei problemi dell'euro.